Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buongiorno a voi e benvenuti da Nicoletta Carbone. Accomodatevi perché come tutti i sabati ci parliamo per affrontare le sfide educative che ci riguardano in prima persona, ed è qui per noi, per darci una mano, per accendere pensieri, per aiutarci a riflettere e anche forse a non spaventarci. Oggi è necessario, sì. Alberto Pellai, ciao, ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Oggi una puntata doppia. Sì, avremo due temi, siamo molto sul pezzo e ve lo raccontiamo anche attraverso il nostro sommario. Come proteggere un figlio senza asfissiarlo con le nostre paure? Un Natale tutto da giocare. Abbiamo sentito con ansia, apprensione e orrore le vicende che hanno avuto per protagoniste le adolescenti di Avetrana e Brembate degli ultimi mesi. Lasciatemelo dire. Come mamma di una tredicenne, io credo di non reggere più questo tipo di notizie. Da una parte mi viene voglia di chiudere mia figlia in casa e non farla più uscire. Dall'altra vorrei invece farmi giustizia da sola. Credo che se qualcuno osasse fare del male a mia figlia, io potrei arrivare a compiere anche gesti estremi. Guardando mia figlia, che ascolta tutto, io però la vedo poco allarmata e a me dice che sono proprio un'esagerata. Ma perché queste ragazzine sono così superficiali e non si rendono conto che il mondo là fuori è pieno di pericoli? Alberto, è vero, la sensazione che molti adulti hanno, anche dalle ultime notizie, da Yara, da Sara, è che il mondo sia pieno di pericoli. E un po' questo tam-tam mediatico, trasmissioni come la nostra che ne parlano, forse sviluppano, no? Un po' di ansia, la fanno crescere, soprattutto ci portano a considerare episodi che sono sempre, per fortuna, degli episodi molto, molto rari, come se diventassero quotidiani all'ordine del giorno. Sì, credo che la percezione di noi genitori è quella proprio di sentirci sotto assedio, e tra l'altro c'è questa amplificazione incredibile di un singolo fatto che entra in tutti i media, in tutti i telegiornali, viene approfondito in moltissimi modi diversi e alla fine diventa non un fatto, ma il fatto. La quotidianità. E noi ci identifichiamo naturalmente come genitori con questa percezione altissima del rischio che questo genere di notizie ci comunica, conseguentemente vediamo tutto il mondo colorato di nero, il bicchiere lo vediamo effettivamente sempre mezzo vuoto. Alberto, ne parlano anche i bambini, ragazzi. Tu come hai raccontato queste notizie ai tuoi figli? Ma io mi sento proprio di dire, io in casa ho bambini sotto in età di scuola primaria, cioè per me è molto importante a loro dare un senso di sicurezza rispetto alla nostra realtà, alla nostra quotidianità. Tra l'altro, eventi come quelli che abbiamo sentito raccontare dei media non sono in nessun modo prevenibili, sono proprio quella sorta di scheggia impazzita che su cui davvero non si può fare nulla. Conseguentemente i miei figli, io continuo a dire che per quel che li riguarda, mamma e papà sono molto attenti alla loro crescita e noi cerchiamo in tutti i modi possibili e immaginabili di garantire a loro la miglior vita possibile. Detto questo, nel mondo ci sono persone, poche, che hanno seri problemi e che possono davvero fare dei grossi danni. In linea con noi il dottor Giuseppe Maiolo, psicoterapeuta fondatore della cooperativa Il Germoglio di Bolzano. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Dottor Maiolo, Alberto ci dà un messaggio rassicurante. Secondo lei qual è lo stile educativo che bisogna tenere in questi momenti in cui siamo bombardati, messi sotto assedio, nascono le paure anche in genitori che erano assolutamente tranquilli, lasciavano i loro ragazzini andare a scuola da soli ed erano sicuri? Ma adesso viene il dubbio, le certezze vacillano. Ma condivido quello che diceva Alberto, è necessario che i genitori continuino a mantenere un atteggiamento rassicurante, contenere le loro ansie, contenere le loro preoccupazioni è fondamentale per garantire ai figli una fiducia comunque nella vita, nella realtà, anche se questa è diventata davvero difficile oppure viene percepita effettivamente come molto pericolosa, e non possiamo dire di no visti i fatti che accadono. Dall'altra io credo che appunto è proprio questa fiducia nel valore protettivo, per esempio, che ha la funzione genitoriale, che è quella di rassicurare, ma anche di controllare, contenere le preoccupazioni, che dà secondo me le maggiori garanzie di protezione nei confronti dei figli. Io credo che, tra l'altro, lo dico proprio ai genitori all'ascolto, queste ore continue, queste tonnellate di minuti che ogni giorno entrano in casa nostra con questo bollettino del terrore, sono davvero spaventevoli e spaventanti, soprattutto per i nostri figli più piccoli, perché in qualche modo, ripeto, costruiscono un'immagine della realtà che è al di fuori di ogni possibilità di controllo e che tra l'altro fa sentire vulnerabili, perché alla fine quello che ti senti dire è che il mostro è vicino a noi, intorno a noi, e può colpire quando meno te lo aspetti, un po' proprio come nella favola di Cappuccetto Rosso, per cui il lupo esce, si traveste e ti può prendere, ti può attaccare, per cui provo a lanciare proprio anche questo genere di allerta. Siamo sicuri che telegiornali, trasmissioni di cronaca che ogni giorno riempiono la nostra casa con questo genere di dialogo, di discorso, di approfondimento, sono la cosa migliore da far vedere ad un figlio. Aspettiamo anche i vostri commenti, scriveteci a essere benessere@radio24.it. La seconda cosa è che mentre noi facciamo sentire così vulnerabili i nostri figli, non diamo mai competenze protettive invece. Che cosa fare in una situazione di rischio? Perché non parli con mamma e papà? Ecco, questo mi sembra un altro fronte che va un po' esplorato, perché questa è la vera prevenzione. Tra l'altro la mamma della nostra lettera si lamenta perché sua figlia sembra indifferente alle notizie preoccupanti che ascolta, ma forse in qualche modo, come anticipavi tu Alberto, un po' di sana indifferenza potrebbe anche essere protettiva. Cosa ne dice il dottor Maiolo? Ma sì, certamente i ragazzi molto spesso tendono a sottovalutare, certamente a non riconoscere effettivamente quali sono i veri problemi, ma molto probabilmente capita anche un po' perché fa parte del loro percorso di crescita. Gli adolescenti tendono a riconoscere meno o a percepire meno il rischio di quello che è, dall'altra perché appunto forse anche noi come adulti e come genitori non li abbiamo adeguatamente preparati. I fattori di protezione si insegnano fin da quando, cioè diciamo, ci sono, si sviluppano e partono dai genitori con i figli fin da quando sono piccoli. Ecco, si può sempre iniziare. Questa casa non è un albergo. Ritorno con una sorta di slogan che possiamo poi sviluppare nel corso della nostra trasmissione: meno paura, più informazione. Questa è la vera prevenzione. Dottor Maiolo, partiamo da qua. Concordo pienamente, perché secondo me, come magari dicevo prima, bisogna cominciare da piccoli a dare informazioni. Come insegniamo ai bambini ad attraversare in modo sicuro una strada, dobbiamo insegnare probabilmente anche a affrontare quelli che possono essere i pericoli vari. E quando insegniamo ad attraversare una strada, certamente non mettiamo davanti le paure di sanguinosi incidenti che possono occorrere, però diciamo quali sono le cose che devono essere fatte per attraversare correttamente una strada. Quindi anche rispetto a tutte le altre cose che possono accadere nella vita, io credo che il genitore abbia proprio questa forza, che è quella di preparare i figli ad affrontare la vita. Concretamente, Alberto, ci rivolgiamo ai genitori che hanno bambini nella scuola elementare, genitori che, come la nostra ascoltatrice, hanno a che fare con adolescenti in erba. Naturalmente lo stile della comunicazione cambia, però i principi sono quelli. Alberto, Concretamente? Ma guarda, concretamente, per esempio, il nostro ospite Giuseppe Maiolo ha scritto un libro che si intitola Giù le mani, edito dal Centro Studi Erickson, che è la storia di un pinguino che riceve proprio nella vicenda e nella narrazione di questo testo tutte le istruzioni e le informazioni per riconoscere una situazione in cui viene messo a rischio e soprattutto per difendersi. I nostri figli devono sapere che in ogni contesto in cui c'è un adulto, una persona più grande che li fa sentire a disagio, che cerca di toccarli, che cerca di eccitarli rispetto al tema della sessualità, e questa cosa a loro provoca una reazione emotiva molto forte, ecco, quello che devono fare è chiedere subito l'aiuto di un adulto. La gran parte delle vittime raccontano che sono state coinvolte in situazioni molto rischiose in cui hanno sperimentato un disagio emotivo molto forte, e proprio perché queste situazioni avevano a che fare con la sessualità non hanno avuto il coraggio di parlarne con nessuno, soprattutto con mamma e papà, che sono stati percepiti come adulti che hanno paura a parlare con i propri figli di sessualità. Quindi direi che poi la regola della prevenzione universale è essere adulti capaci di fare una buona educazione affettiva e sessuale con i nostri figli. Saliamo d'età, arriviamo ai ragazzini delle medie. Allora, i ragazzini delle medie devono essere in qualche modo dotati di possibilità di gestire la loro libertà di movimento nel loro territorio di vita, avendo però regole di autoprotezione molto precise. Quando un figlio esce di casa, devo sapere esattamente a che ora esce, a che ora entra, qual è il percorso che fa. Se voglio sapere, in caso è un percorso lungo, ci sono delle variabili che per me sono imprevedibili, se è arrivato, mi do un codice proprio di regolamento, quando sei arrivato mi fai uno squillo del telefono. La solita frase che ci dicevano: pensa, se la mamma avesse bisogno di dirti qualche cosa, come farebbe a trovarti? Questo è un po'... Quindi è fondamentale che un genitore sappia sempre dov'è un figlio. Altro aspetto è che muoversi in compagnia, soprattutto in alcuni territori che per esempio possono essere pericolosi, o in generale, cioè proprio muoversi in gruppo tra i 12 e i 14 anni, quando le prove di libertà sono proprio all'inizio, dà molta più sicurezza sia agli adulti che ai ragazzi. Dottor Maiolo, lei sa che però se ad un adolescente gli si chiedono tutte queste garanzie, le vive come dei controlli, delle limitazioni della sua libertà. Però, sì. Noi abbiamo pronto un contrattacco. Che cosa si può dire? Ma credo che si possa dire che l'attenzione che il genitore deve avere per quello che fa un adolescente è importante per garantirgli appunto la sicurezza. In fondo non è poi così vero, dal mio osservatorio, che gli adolescenti sentano sempre questa attenzione come un controllo eccessivo. Lo sentono quando i genitori sono asfissianti, come qualcuno appunto dice, mi stanno sempre col fiato sul collo, ma in realtà poi gli adolescenti, quando stanno male, dicono: io vorrei tanto sapere che mi dicano i miei genitori cosa devo fare e cosa non devo fare. Quindi si aspettano che i genitori siano attenti e siano presenti nella loro vita. Certamente, ripeto, torniamo sempre a quello che si diceva anche prima, si deve cominciare presto. Per esempio, una delle cose che aggiungerei a quello che ha detto Alberto prima è che ai bambini, che poi diventeranno degli adolescenti, bisogna insegnare a non avere mai segreti. Questa è una parola chiave, per esempio, che viene utilizzata per prevenire l'abuso, gli adescamenti, eccetera. Vale a dire, i bambini devono sapere che non devono trattenere delle cose che sono pericolose, ma devono confidarsi con i loro genitori. Tra l'altro, dotare i nostri figli di competenze preventive significa anche mettere un argine a questa emozione dilagante che è la paura, e che davvero striscia in modo profondo e attraverso tutti i canali anche nelle nostre case. Per esempio, rifletto a voce alta con i nostri genitori all'ascolto. Secondo me, quelli che hanno protestato rispetto all'interruzione del film Cenerentola, andato in onda sulla Rai questa settimana, improvvisamente è comparso Bruno Vespa, che doveva lanciare il tema della sua puntata e ha fatto un intro effettivamente molto inquietante rispetto ai pericoli a quale sono esposte in particolare le ragazze tredicenni, proprio come ci ha scritto la mamma. Io trovo che questa cosa, cioè entrare in un cartone animato con un messaggio così ansiogeno, sia oggettivamente spaventante. Stiamo vedendo Cenerentola, un film che ha fatto sognare generazioni. Chi mai potrebbe immaginare che una bambina di 13 anni scompare in 700 metri di strada, o che un'altra di 15 finisce in un garage, così sembra almeno, e non esce. Provo a chiedere che cosa ne pensa il dottor Giuseppe Maiolo. Da quello che so appunto dai giornali, ho sentito anch'io di questo intervento e lo trovo anch'io davvero decisamente sbagliato. Bisognerebbe effettivamente che ci fosse un maggiore controllo sicuramente, perché chiaro, in un momento in cui tutta una serie di fatti vengono segnalati con dovizia di particolari dai telegiornali, l'aggiungere ulteriori elementi di ansia, di preoccupazione, non fa che generare sconforto, paura, angoscia, e questo non... Questo certo non aiuta. Non aiuta i genitori a contenere quello che è un sentimento di paura che va contenuto, altrimenti questo viene trasferito anche ai figli con atteggiamenti ovviamente poco rassicuranti e aiutano poco a crescere. Provo a dare un esempio concreto. Se voi siete su un aereo, state volando e avete paura, e avete di fronte a voi il vostro vicino di posto che è terrorizzato, voi non riuscite in nessun modo a tenere sotto controllo la vostra paura. Per cui mettere un argine alla paura, cioè usare i pensieri che gestiscono e controllano le emozioni, è fondamentale. In questo clima dove tutti sono spaventati, avere alcune certezze. Sono un buon genitore per mio figlio. Siamo circondati da adulti che hanno un pensiero intelligente e competente su come si crescono infatti, i figli e i ragazzi. Più che concentrarci sulla paura, io in questi periodi così un po' difficili mi concentrerei sul potere della genitorialità, Alberto. Cioè passerei proprio dal caso alla protezione. Allora proviamo a fare una rete di adulti. Noi sappiamo come si proteggono i figli, nel senso che nella nostra comunità noi siamo adulti attenti e competenti. I nostri figli si muovono con sufficiente libertà e autonomia, ma secondo le regole che tutti noi adulti stabiliamo, e da qua si riparte. Dottor Maiolo, io la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie. Questa casa non è un albergo. E cambiamo, come promesso, decisamente argomento. Alleggeriamo, Alberto. Alleggeriamo. Alleggeriamo. Ecco, questa è la parola magica, e alleggeriamo parlando di giochi. Ci ha scritto una nostra ascoltatrice che vuole, seguendo un po' la scia di quello che avevi proposto tu due o tre trasmissioni fa, vuole fare regali Col bollino blu, vediamo dei di che regali natura. Intelligenti. Sentiamo la lettera. Sono una nonna. Ho ascoltato la puntata in cui avete dato consigli per i regali di Natale. Io e i miei nipoti quest'anno regalo solo giochi in scatola per due motivi. Ricordo quanto era bello per me da mamma passare pomeriggi a giocare a Monopoli con i miei figli allora bambini, e poi sono proprio stanca di tutti quei giochi in cui i bambini non interagiscono con nessun altro, ma solo con uno schermo. Vorrei però qualche consiglio da voi. I giochi di un tempo, come Monopoli, vanno sempre bene. Oppure c'è qualche novità degna di questo nome da chiedere a Babbo Natale per i miei nipoti? Certo che Babbo Natale, ha un sacco da fare, perché le opportunità si moltiplicano. Ha molti fans in questo periodo il nostro Babbo Natale e ha ragione, per cui io credo che questa nonna... Dove li andrà a cercare questi regali Babbo Natale? Ma lui ha la fabbrica di Babbo Natale. Più fabbriche a questo esatto. Punto. Tu che gioco in scatola amavi quando eri bambina? Beh, logico, Monopoli, no? Ecco. No, giocavo il gioco dell'oca, che mi piaceva così e così, e poi Monopoli perché io... Bravo. Sul gioco dell'oca non faccio commenti perché... Che battutona, che battutona. Su Monopoli ti dico bravissima, no, ecco perché sei diventata così brillante, scattante. È un gioco straordinario, è un gioco che di generazione in generazione ci ha visto intorno a un tavolo. Io lo gioco addirittura in una versione Monopolino, già con i miei bambini più piccoli, ma devo dire, se non l'avete mai regalato, è un ottimo gioco, si è completamente rinnovato. Cioè, intanto c'è in una versione 3D. E c'è anche in una versione elettronica. Scusa, ma imprevisti, probabilità, questa cosa. Tutto è rimasto. Uguale. Tutto è rimasto. E secondo me, se vi ricordate quanto era divertente sedersi intorno a un tavolo, genitori e figli, perché poi questo è il valore del gioco. Sai che io l'altra volta sono andata a trovare mio papà a Torino, che era allettato, e sono rimasta veramente commossa. Salivo su per le scale, chiamavo, nessuno rispondeva, e poi ho trovato mio papà, 83enne, mio nipote, 14 anni, Filippo, che giocavano a Monopoli. Tutte e due cercavano di imbrogliare l'altro, ma giocavano, e questa veramente mi ha commosso e mi è piaciuto, perché ho detto: guarda, un gioco che unisce due età così diverse. Bravissima. Che è un po' il merito dei giochi da tavola, bisogna sceglierli bene perché piacciono ai piccoli e ai meno piccoli, però tutti li possono giocare, e tra l'altro fanno succedere un sacco di cose intorno a quel tavolo, perché parli, litighi, devi superare gli ostacoli, bari. E poi ne devi venire fuori. Diamo qualche consiglio magari per fascia d'età. Allora, per i piccolissimi c'è piccolissimi no, lasciamo, diciamo, scuola elementare, perché se li mettiamo, allora, già c'è giocare... un maialino che piacerebbe molto alla tua trasmissione Essere Benessere, perché insegna a mangiare in quantità adeguate. Si chiama Otto, il maialotto che fa il botto. È uno dei grandi, proprio delle grandi novità di questo Natale. Tu devi dare da mangiare hamburger a un maiale molto molto goloso. Se però esageri, il maialotto cosa fa? Il botto. E secondo me lo potete abbinare, cioè scoppia, e quindi proprio un'indigestione. E secondo me è una buona occasione per fare educazione alimentare con i più piccolini. E se invece li volete stimolare in tutti i modi possibili e immaginabili, avete due possibilità. Qualcosa di meno cruento del maiale che scoppia. E invece io rimango sul cruento, perché c'è un gioco, il Super Magic Show, dove puoi fare un sacco di cose incredibili da prestigiatore, da mago. Ma pensa, addirittura tu puoi tagliare proprio come le donne che vengono dal mago, tagliate in tre parti. Bene, c'è la stessa magia per un tuo braccio, e quindi tu puoi creare lo stesso effetto incredibile con... Credo che mi guardi perché vorresti mettermi lì e tagliuzzarmi a pezzi. E ad ogni modo, sempre per i più piccoli, tutti noi abbiamo giocato col sapientino. Adesso esiste in nuove incredibili versioni, molto digitali, molto elettroniche, con la chiavetta abbinata alla televisione. Lì questo è un gioco veramente educativo, quindi per bambini di cui vogliamo potenziare alcune competenze. Vogliamo divertirci? Beh, se possibile, se non è troppo, oltre che imparare a far scoppiare maiali e tagliare le braccia a pezzi, magari. Allora, un gioco di attenzione, di osservazione, si chiama Pictureca. Un gioco molto appassionante, dove ci vuole una fortissima capacità visiva, e nel momento in cui tu cominci a giocare non puoi perdere neanche un minuto di concentrazione. Quanti giocatori? Puoi giocare quanti giocatori vuoi, puoi giocare a squadre, puoi giocare singoli. Questo è un gioco in cui davvero anche tutta la famiglia può riunirsi intorno al tavolo. Il mio gioco preferito, il gioco che... giocherò questo Natale. Ecco, mi raccomando. Sempre che Babbo Natale di... lo porti a casa nostra. È il gioco legato a Reazione a Catena, il programma televisivo. Devo dirti che noi non abbiamo la televisione. Questo in vacanza lo sappiamo, Alberto. Abbiamo però la possibilità di vedere programmi televisivi, e Reazione a Catena andava in onda proprio in contemporanea del ritorno dalla spiaggia e della preparazione per la cena. Perché adesso, quando invitano la famiglia Pellai, gli amici li invitano, la prima domanda che loro fanno è: avete la televisione? Perché così a casa non si vede, ma si può vedere a casa degli altri. E ti dirò però che io sono rimasto molto stupito dal gioco anche televisivo, perché è un gioco dove devi mettere in gioco un sacco di competenze, è vero. Lo stesso gioco è ricreato in 6 schemi affinché tu possa rifare esattamente quello che c'è dentro il programma televisivo intorno al tavolo di casa tua. Senti, a proposito di tavolo, un bel rubamazzetto per le vacanze di Natale. Questo mazzo di carte, si può fare qualsiasi cosa. Per i più grandi, se avete figli adolescenti, c'è un Trivial Pursuit in una versione particolare, dove non conta soltanto l'intelligenza, ma conta anche la fortuna. Quindi è un Trivial Pursuit casino dove si può improvvisare, ma si può invece giocare anche mettendo in campo le proprie competenze. E se invece vogliamo rimanere un brain training da tavolo e non elettronico, si chiama Brain Race, e puoi fare un sacco di cose diverse con giochi di logica, giochi di memoria, giochi di acuità visiva, molto molto interessante, molto divertente. Effettivamente è una versione poco digitale, tutta cartacea, che però fa fare un sacco di cose e non ti obbliga a stare lì fermo davanti a uno schermo. Quindi va bene anche per famiglie in cui giocano nonni, nipoti. Questo credo che è il grande vantaggio del gioco da tavolo. Cioè, a conclusione direi, provate almeno a sperare che Babbo Natale metta sotto il vostro albero un gioco da tavola per i vostri figli, perché loro giocheranno con voi, loro giocheranno fra di loro, ed è un modo molto divertente, molto intelligente di passare il tempo, lasciatemi dire, molto stimolante. Quindi mettiamo una parolina buona per Babbo Natale, voi scriveteci e noi faremo una raccomandazione, Alberto, perché sì, arriviamo anche lì volendo arriviamo anche lì. Se siete bravi potete scriverci a essere benessere@radio24.it. Alberto Pellai, che conosce proprio da vicino Babbo Natale, e vedremo che cosa potrà fare per regali voi. Col bullino blu. Per oggi è tutto, allora un saluto da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.